Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. E quel giorno in cui io sono diventata l'altra e a 8 anni non ho potuto più andare a scuola, ero a tavola con mio papà e i miei nonni e mi dissero: tu non puoi più andare a scuola quest'anno, io devo fare la terza elementare. Mi piaceva molto andare a scuola perché figlia unica, senza la mamma, non avevo fratellini, cuginetti con cui giocare, andavo a scuola molto volentieri. E dissi: perché non posso più andare a scuola? Sei stata espulsa. Avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, l'ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre, la senatrice Liliana Segre, sapete, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti, oggi davanti ai ragazzi e alle ragazze della cittadella di Rondine, vicino Arezzo, ancora una volta ha raccontato, come fa ormai da 30 anni, da ragazzina sopravvissuta appunto nei campi nazisti, ha raccontato gli orrori della Shoah, passando il testimone però definitivamente ai più giovani, dicendo loro di continuare, insomma, a conservare e a raccontare la memoria di quel genocidio perché non accada più, e perché lei ha detto adesso a 90 anni è stanca, non ha più voglia di ricordare, non ha più voglia di soffrire. Questa sera parleremo dell'allarme degli anestesisti sui contagi che salgono sempre di più, e l'allarme che riguarda soprattutto il centro-sud, le terapie intensive, gli ospedali, la possibilità e la sostenibilità, insomma, se i contagi, dicono, dovessero continuare così incalzanti. Ne parleremo proprio con il presidente dell'Associazione Nazionale Anestesisti. E poi, fra le varie cose, il caso Palamara, che è arrivato a un esito piuttosto drastico. Per i vostri commenti, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte oppure WhatsApp, sempre al solito numero, che è 349-238-6666. Quindi, come sempre, tanti argomenti da approfondire, ma prima di tutto sintesi della giornata. L'andamento del coronavirus in Italia: nuovi contagi oltre quota 5.000, 28 i morti. La Campania preme per chiudere e dagli anestesisti arriva l'allarme: temiamo per gli ospedali del sud. E la Procura di Milano intanto apre un'indagine conoscitiva sull'acquisto di vaccini antinfluenzali da parte di Regione Lombardia a prezzo superiore a quello di mercato. L'appello di Mattarella a tenere aperta l'Italia è responsabilità comune. Il Viminale promette il pugno duro con i negazionisti domani in piazza che non dovessero rispettare le regole. Intanto in Francia nuovi contagi record, oltre 20.000 in 24 ore, e l'OMS parla di un record di nuovi casi nel mondo nelle ultime 24 ore, 350.000 nuovi casi. La vicenda Palamara: per il magistrato la sanzione più severa dal CSM, cioè la rimozione dall'ordine giudiziario. Il Nobel per la pace 2020 è stato assegnato al Programma Alimentare Mondiale. Nella crisi ha assicurato pasti per 97 milioni di poveri. Calcio: Under 21 maschile, altri 3 positivi. La UEFA rinvia Islanda-Italia. Partiamo quindi dai dati sull'evoluzione del coronavirus in Italia. Continuano a crescere i contagi. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372 e 28 sono i morti. Oltre 1.000 i casi in Lombardia, ma a preoccupare sono soprattutto gli ospedali delle regioni del sud. E anche il presidente Mattarella fa appello al senso di responsabilità di tutti. A fronte del nuovo record di tamponi, quasi 130.000, sono 5.372, circa 900 più di ieri, i nuovi positivi in Italia, 28 le vittime. Rimane l'emergenza sud, ma nelle ultime 24 ore il record dei contagi, 983, è tornato alla Lombardia, seguita dalla Campania, che ne ha registrati 769, subendo 5 vittime. Per me sarebbe già ora di chiudere tutto, ha detto il governatore De Luca, sentiamolo. O rispettiamo rigorosamente gli impegni, oppure si prenderanno misure drastiche per quello che riguarda la Campania. Quando l'indice di contagio RT ha superato il valore soglia di 1 in 13 regioni, la Campania presenta il valore maggiore, 1,24, seguita dalla Sicilia 1,22 e da Trento a 1,18. Per la prima volta in Italia si segnalano elementi di criticità a livello sanitario, avverte l'Istituto Superiore di Sanità, segnalando l'aumento dei casi sintomatici e dei ricoveri e quasi 1.200 nuovi focolai. Alla vigilia delle manifestazioni dei negazionisti a Roma, che dovranno essere condotte nel rispetto delle le regole, ha tuonato Gabrielli, ad esortare gli italiani a fare squadra nella lotta al Covid è stato il presidente Mattarella. La libertà, ha detto il capo dello Stato, non è un fatto esclusivamente individuale. Per tenere aperta l'Italia dobbiamo realizzarla insieme, con responsabilità e collaborazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E il presidente dell'associazione anestesisti ospedalieri, Alessandro Vergallo, lancia l'allarme, dice: se i contagi continuano a salire a questo ritmo, temiamo per gli ospedali del sud, e ne parlerà qui tra poco a Effetto Notte. Intanto la Procura di Milano ha aperto un'indagine conoscitiva sull'acquisto di vaccini antinfluenzali da parte di Regione Lombardia a prezzo superiore rispetto a quello di mercato. Il fascicolo per ora non ha né indagati né titolo di reato, sarà comunque argomento di approfondimento nel corso di questa puntata. I contagi in Europa, situazioni critiche, e altre regioni italiane finiscono nella lista rossa. Il coronavirus continua a fare paura in Europa. La vicina Svizzera prevede la quarantena da lunedì per chi arriva da quattro regioni in Italia: la Liguria, la Campania, la Sardegna e il Veneto. La Germania adotterà ulteriori misure restrittive nel caso la curva dei contagi non si stabilizzasse, lo ha detto la cancelliera Merkel all'indomani del record di contagi nel paese da aprile, oltre 4.000. In alcuni ospedali è stata già denunciata la carenza di personale. In Spagna, approvato dal governo lo stato d'emergenza nella capitale e dintorni, al fine di imporre restrizioni più severe. In Francia, massima allerta in altre quattro città: Lille, Lyon, Grenoble e Saint-Étienne, che si vanno ad aggiungere alle 12 già in massima allerta. Gli ospedali di Parigi sono poi entrati in modalità di emergenza. Le autorità di Mosca stanno pensando di chiudere bar e nightclub dopo che la Russia ha riportato il record di casi giornalieri di coronavirus da maggio. Il Regno Unito registra un allarmante tasso di mortalità del 7%, tra i più alti al mondo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come vi dicevo poco fa, in Francia la notizia che il record ulteriore è raggiunti in 24 ore, altri 20.000 nuovi contagi, e poi l'allarme lanciato dall'OMS nel mondo, anche questa è una giornata da record a livello mondiale, 350.000 nuovi casi in 24 ore. Cambiamo argomento col caso Palamara. Luca Palamara è stato radiato dalla magistratura. La sezione disciplinare del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, lo ha condannato alla sanzione massima prevista dopo una camera di consiglio durata 2 ore e mezza. Non ho mai barattato la mia funzione per fare un favore al politico di turno, ha dichiarato nel corso della conferenza stampa Palamara, durante la quale ha annunciato un ricorso alle sezioni unite della Cassazione e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Poi andremo più nel dettaglio di questa vicenda nel corso di Effetto Notte. Sono arrivati nel pomeriggio all'aeroporto di Ciampino padre Maccalli e Nicola Chiacchio, liberati ieri in Mali. Siamo stati gestiti da tre gruppi, tutti appartenenti alla galassia jihadista legata ad Al-Qaeda, hanno raccontato agli inquirenti in una caserma dei ROS per i primi interrogatori. Non abbiamo ricevuto minacce di morte, ma il momento peggiore, dicono, è stato quando è fuggito Luca Tacchetto, cioè il padovano tornato libero nel marzo scorso. Ci hanno tenuto per alcuni giorni incatenati agli alberi, ma poi la situazione si è tranquillizzata. L'ultimo discorso in pubblico oggi di Liliana Segre, avete sentito una parte all'inizio, la senatrice a vita sopravvissuta alla Shoah dopo tanti anni nelle scuole, questa mattina ha partecipato all'ultimo suo incontro pubblico alla Cittadella della Pace nel borgo di Rondine, in provincia di Arezzo. Non ebbe il coraggio di salutarla prima che venisse condotta nelle camere a gas. Un rimorso questo che ha accompagnato tutta la vita di Liliana Segre. Ed ora è a lei, Janine, la giovane amica conosciuta ad Auschwitz, che è dedicato uno spazio alla Cittadella della Pace. Luogo simbolo che Liliana Segre ha scelto per il suo ultimo discorso pubblico, dopo aver parlato per anni, instancabile, nelle scuole, offrendo la sua testimonianza soprattutto ai ragazzi, che le hanno reso omaggio con oggetti simbolici e canzoni. Bisogna scegliere sempre la vita, ha ribadito Segre, la quale non ha mai perdonato, non ha mai dimenticato, però c'è un momento in cui bisogna fermarsi. C'è un momento in cui una persona di 90 anni, come sono io, dice: beh, basta, adesso mi riposo, adesso non voglio più ricordare, non voglio più soffrire, non voglio più. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E da una donna di pace come Liliana Segre al Nobel per la pace 2020, a sorpresa è andato al World Food Program, al programma alimentare mondiale, per i suoi sforzi, questa è la motivazione, nel combattere la fame, per il suo contributo nel migliorare le condizioni per la pace nelle aree colpite da conflitti e per la sua azione nel guidare gli sforzi per prevenire l'uso della fame come arma di guerra. Una scelta sulla quale ha pesato anche la pandemia da coronavirus, che assieme ai conflitti in corso nei teatri più poveri del pianeta ha portato a un drammatico aumento del numero di persone che vivono sull'orlo della fame. Per chiudere lo sport, il francese Arnaud Demare ha vinto allo sprint la settima tappa del Giro d'Italia Matera-Brindisi. Per lui terza vittoria in questo giro, mentre il portoghese Almeida conserva la maglia rosa. Poi calcio e Covid. Ibrahimovic è guarito dal Covid-19. Annunciarlo sia l'attaccante sia la società. Su Instagram il messaggio: sto tornando per tutti voi, a poco più di una settimana dal derby di Milano. E intanto due calciatori e un membro dello staff della nazionale maschile Under 21 a Reykjavik in vista del match di qualificazione ai campionati europei di categoria previsto oggi con l'Islanda sono risultati positivi questi due calciatori e un membro dello staff al Covid-19 dopo il tampone effettuato ieri all'arrivo in aeroporto, i cui risultati sono stati resi noti nella tarda serata di ieri. La partita è stata quindi rinviata. Mentre io vi rinvio brevemente a dopo la viabilità, così cominciamo ad approfondire alcuni temi con gli ospiti. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure i WhatsApp al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Siamo di fronte, come del tutto evidente, ad un'aggressione mediatica alla Campania. C'è gente che cerca di nascondere i propri limiti o i propri errori appendendosi alla Campania. Ce lo aspettavamo, sapevamo che sarebbe stato così, nessun problema. E questo, cari ascoltatrici e ascoltatori, è un passaggio della diretta che oggi il presidente della Regione Campania ha fatto, De Luca, Vincenzo De Luca, in diretta su Facebook. Perché dice c'è un'aggressione mediatica, secondo De Luca, nei confronti della Campania e quindi anche del suo presidente di regione a proposito della situazione legata al contagio, al coronavirus così alta. In questo momento è la regione, come sapete, che desta maggiore preoccupazione. Però lui ha snocciolato una serie di dati dicendo, fra le altre cose, per esempio, che la Campania rispetto ad altre regioni, quindi in proporzione alla popolazione, ha molti meno medici, meno personale medico. Il monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e l'ISS, Istituto Superiore di Sanità, dice, sapete che appunto ogni settimana fa un po' il punto, a livello nazionale continua a salire il numero di persone ricoverate, conseguentemente aumentano i tassi di occupazione delle degenze in area medica e in terapia intensiva. E dice ancora questo monitoraggio del Ministero della Salute e dell'ISS, in Italia si osserva un'accelerazione del progressivo peggioramento dell'epidemia di SARS-CoV-2 segnalato da 10 settimane, che si riflette in un notevole carico di lavoro sui servizi sanitari territoriali. Per la prima volta si segnalano elementi di criticità significativa relativi alla diffusione del virus nel nostro paese. Ora, un altro allarme arriva dagli anestesisti, dall'Associazione Nazionale Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani, che dicono se l'andamento dei casi di infezione da coronavirus continuerà con i ritmi e i numeri attuali e senza misure di ulteriore contenimento, stimiamo che in meno di un mese le terapie intensive al centro-sud, soprattutto in Lazio e in Campania per l'appunto, potranno andare in sofferenza in termini di posti letto disponibili. Allora, ne voglio parlare con il dottor Alessandro Vergallo, che è presidente appunto dell'Associazione Nazionale Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani. Dottor Vergallo, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Quindi siete un po' in allarme, nel senso che chiaramente il criterio che più ci dà il senso di dove stiamo andando è proprio quello di quanti sono ricoverati e soprattutto in terapia intensiva. E mi pare, da quello che dite, che la situazione più critica al momento è centro-sud, quando invece nel primo periodo nero dell'emergenza era al nord, in Lombardia in particolare, no? Sì, è così. Siamo preoccupati, peraltro, di fronte a dati che rispetto alla prima ondata sono di gran lunga inferiori. Ci attendevamo in questi lunghi mesi che fossero stati adottati dei provvedimenti che si sommassero a quelli contenitivi presi da parte del governo della diffusione dei contagi in termini di riorganizzazione degli ospedali, dei percorsi di cura dei pazienti Covid e anche delle attività ospedaliere, ma anche della medicina territoriale. Però se lei dovesse dire, dottor Vergallo, quindi ha sentito De Luca, anzi sentiamo anche un altro passaggio dove dice: noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare in termini di prevenzione e che non ha fatto nessuno. Poi c'è l'esplosione del contagio, perché come vi ho detto, se apriamo l'Italia e rimescoliamo il paese, è evidente che la regione ha maggiore densità abitativa, 70% dei contagi sono concentrati qui nell'area metropolitana di Napoli, come sapete anche voi, è chiaro che abbiamo un problema. Allora, primo messaggio ai nostri concittadini: rigore assoluto, anche per non dare soddisfazione a qualcuno che già ha messo in campo una campagna di aggressione mediatica. Abbiamo molti asintomatici, dei 700 e passa che avremo anche oggi, 90-95% sono asintomatici. Ma quindi, dottor Vergallo, a proposito di questo che diceva De Luca, lo faccio sentire perché è un po' lui nell'occhio del ciclone, cioè la Campania, nel senso che appunto ha dei livelli più preoccupanti delle altre regioni. Quando lei dice, rispetto all'allarme che c'era stato nei mesi scorsi, al dire che sarebbe arrivato probabilmente una seconda ondata, chi è che doveva premunirsi, approntare? Cioè, stiamo parlando di governo nazionale, di regioni, voi associazione anestesisti e rianimatori ospedalieri, cosa ne pensate? Ma intanto sicuramente la situazione italiana nel suo complesso appare molto migliore di quella di altri paesi europei, questo è già un dato di vantaggio. Certo. Sicuramente si poteva forse partire prima anche in Italia, ma ormai è inutile piangere sul latte versato. I provvedimenti che sono stati presi successivamente ai primi di marzo sono stati più che efficaci, questo è dimostrato dal fatto che le stesse regioni del centro-sud sono state di fatto preservate al lockdown. Poi è chiaro, il Presidente De Luca ha ragione, nel momento in cui le attività del Paese devono comunque riiniziare, sebbene con le misure di contenimento adeguate per poter dare respiro a un'economia in fortissima sofferenza, è ovvio che c'era da aspettarsi una ripresa dei contagi. Tuttavia le procedure di messa in sicurezza dei percorsi che si potevano creare in attesa di una nuova ripresa pandemica o comunque di diffusione dei contagi, che è quella a cui stiamo assistendo, potevano forse essere migliori in tutte le regioni, in particolare in quelle del sud che, come sappiamo, viaggiano a marce ridotte rispetto alla sanità del nord. Ma quindi più a livello appunto di responsabilità, non per cercare dei colpevoli, ma per capire chi deve agire, doveva agire e deve agire adesso in tempi strettissimi, dottor Vergallo. Ma io credo che anche con le sue uscite mediatiche e social il Presidente Luca si sia speso più che abbastanza per stimolare i suoi conterranei a rispettare le misure di contenimento. Certamente la ripresa dei contagi in quella regione, così come anche in altre del sud, penso anche alla Sardegna, parlando come regione del centro, dipende da una ripresa delle attività sociali, quindi sul piano delle responsabilità nessuno punta il dito contro nessun altro. Certamente ci sono delle differenze strutturali nei 21 sistemi sanitari italiani che creano qualche problematica e qualche riflessione. Quando dite, dottor Vergallo, che se l'andamento appunto dovesse continuare in questo modo e senza misure di ulteriore contenimento, in meno di un mese le terapie intensive del centro-sud, soprattutto appunto Lazio e Campania, come dicevamo, potranno andare in sofferenza in termini di posti letto in terapia intensiva disponibili più o meno all'inizio di novembre, lo prevedete, se dovesse continuare così l'evoluzione del contagio, a che livelli siamo? Cioè, nel senso che non ci sarebbero più posti disponibili? La nostra preoccupazione è legata sia alla disponibilità reale di posti letto di terapia intensiva per pazienti che realmente necessitano di terapia intensiva, ma è amplificato da un altro fattore che finora forse è stato un po' sottovalutato. Ci sono pazienti che, pur avendo sintomi di una certa gravità, non necessitano strettamente delle rianimazioni, ma necessitano di supporti ventilatori non invasivi che possono essere fatti in altri reparti, in altre unità operative. Mentre al nord abbiamo notizia che comunque ci sono queste possibilità di ricoverare pazienti mediamente gravi in reparti subintensivi, al sud la dotazione di reparti in grado di somministrare cure subintensive è inferiore. Questo condizionerebbe, secondo il nostro parere, il rischio che debbano essere riversati in terapia intensiva pazienti che non strettamente necessiterebbero di rianimazione. Questo chiaramente sovraccaricherebbe dei sistemi già di per sé più deboli. E poi in un altro passaggio vedevo quando appunto come associazione, ripeto, nazionale anestesisti e rianimatori ospedalieri, dite: quello che stiamo vivendo in questi giorni potrebbe essere l'inizio della seconda ondata della pandemia da Covid-19 anziché l'onda lunga terminale della prima fase pandemica. Per spiegare a chi ascolta che differenza ci sarebbe. Noi siamo clinici, quindi dovremmo basarci su analisi che vengono condotte da altri professionisti di settore epidemiologico e statistico, però siamo anche osservatori di ciò che accade con i numeri. I numeri ci dicono che è difficile credere a un'onda lunga della prima ondata, siamo più propensi a credere che questo sia l'inizio di una nuova diffusione dei contagi che, per quanto con una tendenza più ridotta rispetto alle fasi iniziali, comunque rappresenta in ogni caso una seconda ondata. Senta, per chiudere, dottor Vergallo, allora domani a Roma e a Capitale sono in programma diverse manifestazioni di negazionisti, no mask, c'è anche una marcia della liberazione. Lei, come presidente nazionale dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani, cosa si sentirebbe di dire a queste persone che domani manifesteranno perché dicono non esiste il coronavirus, vogliono la nostra libertà, niente mascherine, marcia della liberazione, eccetera, eccetera? Che sono degli incoscienti, nessuno intende seminare il panico, occorre riprendere le attività, in primis quelle produttive, lasciando in secondo luogo quelle per così dire ludiche o sociali, ma in ogni caso la guardia va tenuta alta e queste manifestazioni sicuramente non aiutano, dimostrano che c'è una fetta di popolazione totalmente incosciente e totalmente al di fuori della realtà. Grazie dottor Alessandro Vergallo, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Grazie, buonasera. Oh, adesso ci prendiamo tra pochissimo una pausa di riflessione. Intanto vedo tra i vostri messaggi al 349-238-6666, numero per WhatsApp, oppure potete scrivere anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Tonino che scrive: a chi ancora oggi si rifà a quello che ho fatto sentire della senatrice Segre, oggi la sua ultima testimonianza pubblica, dice: a chi ancora oggi vaneggiando sostiene che il fascismo in Italia ha fatto anche delle cose buone, andrebbero ricordate le parole che avete trasmesso della senatrice Liliana Segre poco fa, appunto, che ricordava anche le leggi razziali in Italia del fascismo nel 1938. Pausa, a tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se voi volete la garanzia a fine giornata di sapere tutto quello che è più importante c'è da sapere dall'Italia all'estero, fate bene essere qui ad ascoltare Effetto Notte. Roberta Giordano sempre con voi a raccontarvi in sintesi all'inizio le notizie, appunto, in primissimo piano, e poi con gli ospiti ad approfondire diverse di queste. Intanto i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666, che è il numero per i vostri WhatsApp. Dice un ascoltatore, evidentemente piuttosto pessimista: secondo me alla fine vince il Covid. Vince il Covid, certo, se ci sono persone come quelle che andranno domani a manifestare in piazza a Roma, negazionisti di tutti questi migliaia di morti in Italia e di un milione nel mondo, probabilmente se ne fanno beffe, stanno con la testa sotto la terra come lo struzzo a dire non è vero, non ho visto niente, se c'ero dormivo, e quelli che non rispettano le regole, chi è che ama tenersi la mascherina sulla faccia? Ma se è necessario per salvare se stessi e gli altri, perché la libertà, come diceva Mattarella, non è una questione individuale, è una questione che riguarda tutta la collettività, perché la libertà è responsabilità. Parlavamo prima, appunto, dell'allarme degli anestesisti, ne abbiamo parlato col presidente dell'Associazione Nazionale Anestesisti Ospedalieri, sul fatto che se continua ad andare con questa velocità il contagio in Italia, soprattutto per il centro-sud e in particolare per Lazio e Campania, potrebbero esserci presto problemi in terapia intensiva a livello di sostenibilità, di posti disponibili. E quindi vi ho fatto sentire alcuni stralci della diretta Facebook che oggi il presidente della regione Campania De Luca ha fatto per difendersi dalle critiche nei suoi confronti sul fatto dell'essersi non attrezzato per tempo rispetto a questa seconda ondata. A proposito di attrezzarsi per tempo, ci sono anche i riflettori puntati anche sulla regione Lombardia per quanto riguarda l'approvvigionamento del vaccino antinfluenzale per la popolazione lombarda. Oggi, a questo proposito, la Procura di Milano ha aperto un'indagine conoscitiva sull'acquisto di vaccini antinfluenzali da parte di Regione Lombardia a un prezzo superiore rispetto a quello di mercato. E allora ha aperto, appunto, questa indagine di cui ci parla ora la nostra Sara Monaci del Sole 24 Ore. Bentornata, Sara. Buonasera e ben ritrovati. Senti, intanto sottolineiamo che questo fascicolo di indagine per il momento non ha né indagati né titoli di reato, è conoscitiva, certo, per capire come sono andate le cose, se ci sono degli estremi, no? Sì, era inevitabile, perché evidentemente le notizie che erano uscite dalla regione, in particolare dall'opposizione, avevano messo in luce le inefficienze, ecco, per il momento parliamo di questo, per quanto riguarda le gare. Premesso ovviamente che la regione Lombardia, va sottolineato, è la più popolosa d'Italia, 10 milioni di persone, con un allarme Covid che nei mesi scorsi è stato più elevato. Di conseguenza anche il target individuato per i vaccini è sicuramente molto superiore a quello delle altre regioni. Qui parliamo della necessità di tra i 2 milioni e 8 e 3 milioni di quello che consideriamo il target. No? Mm-hmm. Per cui, quindi bambini sotto i 6 anni, i più fragili, sì. Le persone sopra i 65 anni. Sì, donne in gravidanza. Poi ecco, su questo numero 65 anni, alcune regioni fanno 60 anni, qui si fa 65. Però comunque il punto è che ci sono state ben 10 gare, una decina di gare, tra quelle aperte, richiuse, annullate, poi andate a buon fine, ma senza ancora le forniture. Insomma, un po' un pasticcio dovuto anche probabilmente all'emergenza, al fatto che le case farmaceutiche hanno avuto molte richieste in tutto il mondo e quindi è difficile reperire il materiale. Però la verità è che c'è stato anche qualche probabilmente superficialità nel gestire questa di nuovo questa commessa che è affidata alla centrale acquisti Aria, la stessa poi che è sotto la lente per il caso Camici, il caso testo sierologico, ricorderete insomma tutte le inchieste che in questo momento stanno andando avanti sull'emergenza sanitaria gestita in Lombardia. Qui il problema è che sono state aperte in ritardo. La prima gara era stata aperta con un bando, con una base d'asta basso, 4,5 euro, e non era stato accettato quindi l'offerta a circa 6 euro di una casa farmaceutica. Nel tempo poi si sono accorti che, quindi senza fare un'indagine conoscitiva nel mercato, questo prezzo della base d'asta era effettivamente troppo basso. Siamo addirittura poi arrivati, questo è un po' il paradosso, a comprare una dose a 26 euro, quindi nella corsa a recuperare il tempo perduto con gare aperte, quindi ripeto annullate oppure chiuse senza che nessuno si fosse presentato, quindi diciamo con un'inadeguatezza nel capire quale fosse la base d'asta corretta. La regione si è di fatto poi ritrovata a doversi accontentare di un prezzo molto più alto di quello stabilito. Per fare un esempio, a fine settembre in sostanza si prevedeva di acquistare 1,5 milioni di vaccini a 15 milioni. Siamo arrivati invece ad averne 500.000 per 11,6 milioni e questo ha dato vita a una corsa continua, a un rialzo del prezzo fino a poi doversi accontentare a prendere addirittura a 26 euro. Ma come se non bastasse, questo al di là dell'inchiesta, oggi questo è quello che poi noi scriveremo domani, una circolare ha fatto venire fuori il problema inviato ai medici di base che queste forniture stanno arrivando molto lentamente con il contagocce e quindi alcuni medici di base si sottraggono proprio alla campagna di vaccinazioni perché dicono con 30 dosi a settimana non si riesce proprio ad individuare e a coprire il target necessario. Sì. Quindi evidentemente questa lentezza nell'arrivo di questi vaccini dipende dal fatto che le forniture, anche se le gare sono state fatte, stanno tardando ad arrivare. Ecco, poi di chi è la colpa lo vedremo. Sì. Insomma. Vedremo insomma come procede e speriamo che questa copertura vaccinale, visto che tanta campagna si è fatta affinché le persone, soprattutto a rischio, si vaccinino, quindi questi vaccini ci devono essere in Lombardia come nelle altre regioni e a un prezzo quello di mercato. Grazie tanto Sara Monaci. Grazie Sara. A voi. Buon lavoro. Serata. Ciao Sara. Grazie. E da qui poi passiamo invece a un altro caso della giornata che è il caso Palamara, o meglio la parabola di Luca Palamara, sino a qualche tempo fa considerato un autorevole rappresentante della magistratura italiana, è stato pensate presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, quindi del sindacato dei magistrati, consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura con dei ruoli chiave e oggi invece, dopo questa vicenda che adesso vi racconterà meglio la collega Raffaella Calandra, è stato radiato dalla magistratura accusato di aver pilotato per interessi personali la nomina del procuratore di Roma e anche di aver avuto una condotta di discredito a danno del procuratore aggiunto Paolo Ielo. Buonasera Raffaella. Ciao Roberta, buonasera a te e ai nostri ascoltatori. Lui si è difeso, ha detto sono consapevole di aver pagato io per tutti, parlando del sistema delle correnti, evidentemente che sappiamo esserci anche in magistratura, no? Il sistema delle correnti esiste da sempre, ma è un sistema, diciamo, lecito. Le correnti esistono e hanno delle ispirazioni legate a, appunto, correnti di pensiero del tutto legittime all'interno della magistratura. Certo. Quello che è stato contestato a Luca Palamara fino ad arrivare alla radiazione di oggi è di aver fatto di questa, diciamo, del suo potere, soprattutto dei tempi della guida della corrente di centro, Unicost, anche se i fatti riguardano fatti anni ben più recenti, ma comunque, diciamo, del suo ruolo di essere punto di riferimento di quella corrente, un meccanismo di spartizione tra, appunto, correnti, e quindi tra di orientare, per dirla con le parole della Procura Generale, di manovrare in maniera occulta quelle che erano le decisioni e i meccanismi decisivi del CSM nelle nomine importanti, a cominciare da quella del vertice della Procura di Roma e della Procura di Perugia, dove lui è tuttora imputato per corruzione, e a cascata una serie di altre nomine, compresa quella di procuratori aggiunti a Roma, a cui lui stesso ambiva. Cioè, in sostanza, una geografia di incarichi, di direttivi assolutamente importanti, ma quello che poi a lui è stato decisivo nelle contestazioni a suo carico, anche quello che sono emerse con le chat e con le intercettazioni con questo captatore informatico Trojan, di questa famosa cena all'hotel Champagne di Roma, alla presenza, oltre che di 5 ex consiglieri del CSM che si dimisero, anche di 2 parlamentari, Lotti e Ferri, e uno dei quali anche sotto indagine a Roma. Quindi una inopportunità, diciamo, di relazioni che è stata considerata di inaudita gravità, anche se lui oggi ha ribadito di non aver mai barattato la sua funzione, di non aver mai fatto alcun accordo con alcun politico, e, appunto, di essere, come tu hai ricordato, un capro espiatorio di un sistema delle correnti che in realtà da 40 anni, ha detto, domina la magistratura. Comunque, di sicuro è la parabola, il punto finale, anche se lui ha già preannunciato ricorsi in Cassazione e a Strasburgo, di quello che è stato uno dei magistrati più influenti all'interno della magistratura. E questa vicenda inciderà, che è stato uno degli scandali più gravi dell'ordine giudiziario, inciderà anche sulle urne che l'altra domenica 18, si apriranno per le toghe chiamate proprio a rinnovare l'ANM, e quindi con un'alta possibilità di astensione, visto anche proprio, come dire, la distanza che tutto questo dibattito e le polemiche sul tema delle correnti ha provocato. Esatto. Per chiudere, Raffaella, allora dicevi, appunto, che farà ricorso, l'ha annunciato oggi in conferenza stampa, alla Cassazione e anche alla Corte Europea dei Diritti degli Esseri Umani, però c'è anche, poi partirà un procedimento penale, a parte la radiazione da parte della magistratura. Questo era l'esito finale, sì, del procedimento disciplinare al CSM. L'inchiesta penale è già in corso, è già incardinata. La procura ha chiesto per lui il rinvio a giudizio, quindi il processo per corruzione, mentre è caduta l'accusa di aver preso dei soldi per una delle nomine che erano, diciamo, in discussione in queste trame che sono state contestate a Palamara. Grazie Raffaella Calandra. Grazie Raffaella, buona serata. Roberta. Ciao. Allora, adesso vi lascio, tra pochissimo c'è la viabilità, poi il reportage della settimana, ci sentiamo poi alla fine con le previsioni meteo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Radio 24 Reportage. Impresa Italia, viaggio nei distretti che resistono al Covid. Diana Marino. La pandemia ha colpito tutti, ma gli effetti non sono uguali per tutti. È ancora difficile quantificare l'impatto del Covid-19 sui 158 distretti industriali in Italia. Tanti sono attivi secondo la 12ª edizione del rapporto della Direzione Studi e Ricerche della Banca Intesa San Paolo. Di questi, 59 sono tra Lombardia e le province limitrofe di Emilia, Veneto e Piemonte, le aree più colpite dall'ondata di contagi della scorsa primavera. Nel pieno della bufera gli effetti si sono distribuiti però su tutti i settori, e al contempo sono emerse reti solidali e capo filiera in grado di trainare la ripartenza. Dalle calzature del Brenta alla gomma del Sebino alla meccatronica del Barese e alla pasta di Gragnano, vediamo come reagisce la crisi l'economia delle regioni italiane. Il presidente della piccola industria Confindustria, Carlo Robiglio. L'impatto è stato molto forte e molto violento, ha messo a dura prova la capacità di produzione dei nostri distretti. Ripartiamo però da una grande capacità dei distretti di rigenerarsi, a patto che si spinga sempre di più la capacità di trasformazione e di cambiamento e la forza di managerializzare, di acquisire, far entrare nelle imprese le competenze. In questo modo la forza della rete dei distretti e della rete delle imprese italiane può davvero far ritornare l'economia italiana tra le più forti del mondo. Partiamo con Veneto e Lombardia, dove si sono registrati i primi casi di contagio. Anche prima della pandemia risultavano dai dati euro stata essere infatti la seconda e la settima regione dell'Europa nel settore manifatturiero, partendo entrambe da un tessuto di piccole e medie imprese, in Veneto con distretti campione, occhialeria di Belluno, prosecco di Conegliano Valdobbiadene, termomeccanica di Padova, fino alle calzature della Riviera del Brenta, in Lombardia nei tre distretti dell'alimentare dei vini e distillati e metalmeccanica del Bresciano, carni e salumi di Cremona e Mantova, riso di Pavia, fino alla gomma del Sebino bergamasco. E la Lombardia nel 2009 ha fatto da apripista per i cluster come l'aerospaziale, energie e tecnologie pulite, la Science e ora il punto di ripartenza post-Covid è il polo di innovazione tra Digital Innovation Hub e MADE, il Competence Center di cui è presidente Marco Taisch, professore del Politecnico di Milano. Il Covid è stato un acceleratore della consapevolezza che il digitale è oggi un'arma importante, fondamentale. Noi durante il Covid abbiamo creato uno sportello ad hoc per aiutare le imprese a gestire la ripartenza. Abbiamo messo a punto tutta una serie di servizi sul sito che è www.made-cc.eu. Ma la rete tra queste due regioni, anche per Friuli, Venezia Giulia e Trentino, potrebbe essere il volano per il rilancio, soprattutto con le Olimpiadi in vista, come sottolinea Carlo Frigerio, terza generazione della centenaria Frigerio Viaggi di Giussano. Ripartendo le varie manifestazioni, il volano potrebbe essere le Olimpiadi di Milano e Cortina, che dia un impulso per la ripartenza turistica. Ma se che penso a lui mi vedo, ma vedo i miei monti e a casa d'Annunzia. Il nostro viaggio a tappe prevede una svolta obbligata nei modelli di Piemonte e Liguria. L'emergenza Covid-19 sta confermando quanto siano strategiche le organizzazioni distrettuali e le filiere che rendono meno probabili le interruzioni delle forniture. Le reti modello di Liguria e Piemonte fanno da apripista, soprattutto quelli nelle catene internazionali del valore come tessile, automotive e meccanica. Difficoltà anche nel comparto vini delle Langhe, Roere e Monferrato, anche se nella filiera agroalimentare resistono i dolci di Alba e Cuneo, la nocciola e la frutta piemontese, il caffè, le confetterie e il cioccolato torinese e il riso di Vercelli, che beneficiano della grande distribuzione. E il territorio piemontese ha saputo andare oltre facendo rete tra filiere con capofila che hanno preso la loro linfa dall'università e coi progetti in corso elencati da Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino. Ne stiamo facendo 5, una nell'autoveicolo e manifattura 4.0, una nell'ambito dell'aerospazio, una nell'ambito della salute, una nell'ambito dell'economia circolare e l'altra nell'agricoltura 4.0. Ospiteranno anche start-up. Un esempio di rete tra distretti necessaria come l'acqua, dice Mario da Milano, fondatore e presidente di Ponte Vecchio Acque Minerali, membro del consorzio Pinerolese Energia, che riunisce più di 80 aziende dei diversi distretti. Questa sinergia con l'università è molto importante, soprattutto per la ricerca e la formazione di personale, che sono i meccatroni, perché introvabili peraltro. E in Liguria il rilancio dai trasporti alla logistica dopo l'esempio modello del Ponte San Giorgio è atteso da molto, insieme al Terzo Valico, dal distretto florovivaistico al nautico al tecnologico, per fare rete con il turismo in flessione nonostante il recupero di quello nostrano. Anche dopo la pandemia rimane un distretto industriale da 16 miliardi di euro, quello che corre tra Ferrari, Maserati, Ducati, Lamborghini, Dallara, Pagani, tutte in 150 chilometri in Emilia-Romagna. E poi i circuiti, le sfide della mobilità elettrica, gli investimenti che crescono, una tradizione che continua anche dopo l'impatto del Covid, grazie a una costante ricerca e sperimentazione tecnologica e a percorsi professionali e accademici di alto livello, una rete che si è stretta con altri distretti del food, come il lattiero caseario di Parma, biomedicale di Mirandola che si è risollevato anche dopo il terremoto, le piastrelle di Sassuolo, il distretto del mobile imbottito di Forlì e il tessile abbigliamento di Carpi, mettendo a fattore comune competenze e innovazione con università e istituzioni locali. E in Toscana e Umbria, a dispetto di flessioni importanti del distretto orafo di Arezzo, della nautica di Viareggio, della pelletteria e calzature di Firenze, come del tessile abbigliamento di Prato e il cashmere nel Perugino, ma anche del distretto dell'olio umbro, in alcuni settori addirittura la crescita è stata esponenziale proprio durante il Covid, come spiega Lorenzo Balli dell'azienda Everex, che tra 3D, test sierologici e vending ha visto crescere da lockdown nuovi modelli di business. Noi, come penso la maggior parte delle aziende, con l'avvento del Covid abbiamo fatto previsioni del meno 60%. I nostri clienti hanno messo a punto dei test per il Covid sierologici e quindi aprile e maggio abbiamo fatto i record di fatturato dell'azienda, uno di seguito dall'altro, si è completamente raddoppiato il fatturato nel settore analisi diagnostiche. Resiste e reagisce l'industria marchigiana che, oltre al contraccolpo della crisi, sta ancora risentendo del terremoto che nel 2016 ha colpito le province di Ascoli Piceno, Macerata e Fermo. La rete tra imprese ha funzionato per i distretti manifatturieri marchigiani, non solo con un monitor mensile sull'economia, in cui gli open data e l'economia della conoscenza vanno in aiuto dei distretti, da quello delle calzature di Fermo alla meccanica fabrianese, al legno, ai mobili di Pesaro, ai nuovi tecnologici. Un progetto di Regione Camera di Commercio mensilmente si misura al polso dell'impresa. Certo, in base all'Istat, il 75% di quelle marchigiane ha dichiarato una riduzione del fatturato nel bimestre marzo-aprile 2020. Un 6% delle imprese conferma performance stabili e l'export cala del 9,5%. Ma le imprese marchigiane hanno saputo fare rete con il protocollo per la protezione civile sperimentato durante il terremoto e attivato a livello nazionale anche per i presidi sanitari durante l'emergenza Covid, come spiega Diego Mingarelli, presidente di Piccola Industria Marche Nord, titolare della Dianza SRL di Sassoferrato, prodotti per l'edilizia sostenibile, e vicepresidente per Europa, sviluppo e coesione territoriale, resilienza PGE. È indiscutibile che la nostra regione sia una di quelle più colpite. Dei nostri 9 distretti, solo 2 hanno migliorato la loro dinamica dell'export, e ancor più in una regione che ha tanta piccola e media industria. Far rete è fondamentale, perché da soli gli imprenditori rischiano di non farcela. E anche in Molise prevale la voglia di fare rete per reagire all'impatto economico della pandemia, puntando sui distretti del cibo per dare linfa al distretto di Fara della Valle del Biferno, con i consumi di pasta e la produzione moltiplicati durante e dopo il lockdown. Erano già prima della pandemia i traini, e proprio in Sicilia nel luglio scorso si è concluso l'iter di riconoscimento dei distretti produttivi siciliani, una nuova geografia dagli agrumi al meccatronico, alla pesca, al nautico. Ma il rilancio dell'economia dei distretti nazionali del sud in particolare non può fare a meno di ripartire proprio da qui, dai distretti. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Arrivato il temporale, senza pepe e senza sale, la minestra non si fa. E il nostro Paolo Corazzoni di Trevi Meteo mi sa che di notizie buone ne ha pochine in tasca, vero così, Paolo? Così, in effetti è vero. Buonasera Roberto, buonasera. Ciao, a Paolo. Tutti, diciamo che siamo, dobbiamo essere pronti al cambio d'armadio, ci siamo, perché questo weekend arriverà aria più freddina sull'Italia, e da domenica, non dico che si battano i denti perché non è vero, però a molti credo verrà voglia di accendere un po' il riscaldamento, perché davvero arriva aria più fredda dal nord Europa. Però andiamo con ordine, domani ce la caviamo ancora. Domani è giornata discreta, guarda, solo verso sera comincerà un po' a piovere sul nord Italia, però nel resto del paese domani addirittura temperature fino a 23-24 gradi, quindi situazione ancora piacevole volendo domani. Però appunto domani sera pioggia al nord, e domenica il centro nord avrà una giornata con nuvole, precipitazioni diffuse e soprattutto appunto l'arrivo di aria più fredda al nord. Domenica temperature non oltre i 14-15 gradi, quindi davvero temperature decisamente più contenute, e poi lunedì quelle piogge e questo calo delle temperature raggiungerà anche il sud. Quindi ci siamo, insomma, l'autunno ancora una volta si farà sentire tra domenica e lunedì, diciamo, e poi settimana prossima ci terremo queste temperature un po' più basse. Ma la cosa positiva, tra virgolette, è che le regioni di nord-ovest, che settimana scorsa hanno vissuto un weekend drammatico, in realtà dovrebbero essere in qualche modo un po' risparmiate dalle piogge più intense, quindi almeno non dovremmo rischiare situazioni pericolose. Però, cara Roberta, è autunno, punto e basta, mettiamoci il cuore in pace. Gli posso, posso chiudere la porta in faccia all'autunno? Una volta tanto che una stagione fa il suo dovere, facciamoglielo fare. Ma dai, che ecco. col freddo poi rischiamo un'influenza, tutto quello, non ci voglio pensare. Grazie. Questo è un disastro, speriamo di no. Facciamo finta di niente. Grazie, buon tempo a te, Paolo Corazzon. Grazie, a presto. Buon tempo a tutti. Ciao, Paolo. Ci risentiamo alle 22. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.